Sura prima. Al-Fatiha. La prente. Bismillahir Rahmanir Rahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi. Ar-Rahmanir Rahim. Il compassionevole, il misericordioso. Maliki yawmiddin. Re del giorno del giudizio. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Te noi adoriamo e a te chiediamo aiuto. Ihdina as-siratal mustaqim. Guidaci sulla retta via. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La via di coloro che hai colmato di grazia, non di coloro che sono incorsi nella tua ira, né degli sviati.